Cosa faceva alla sua età? A 15 anni? Sì, io sono andata in fabbrica a 15 anni, perché una volta si andava al lavoro a 14 anni, a 15. Adesso no, vanno neanche a 40, ma insomma... Sì, la Nessi che è contenta. Un'intervista alla Pirelli in cotonificio, fatta a 20 anni, ho la mia pensione, sto bene, nel senso... Allora ci volevano 15 anni per andare in pensione, io ne ho fatti 5 di più perché dopo hanno chiuso la fabbrica e per quello che sono rimasta a casa, se no sarei andata fino alla fine perché avevo un figlio solo. Ma no, sì. Tutto bene. Sì. Quindi si lavorava presto a quell'età? Sì, si andava a 14 anni, mio fratello è andato a 12 anni che aveva 3 anni di più. Si guadagnava bene? Poco e niente, estranei tesseri era la peggior categoria. Okay. Perché ci sono le categorie, ci sono i tessili, ci sono i metalmeccanici, dopo, adesso dopo si va sui infermieri, le maestre, ma insomma quelle cose lì. I tessili e i falegnami erano le categorie più basse di stipendio.